oltre la crisi. Parliamone. In studio il professor Francesco Campione. Così si parte. Buongiorno. Beh, perché la voce non ce l'hai? Sì, sì, ce l'ho, non me ne ero accorta. Buongiorno. Buongiorno. Oltre la crisi. Ciao. Buongiorno. Willy. Ciao. Ciao Francesco Campione. Buongiorno, buongiorno a tutti. Stavo leggendo una notiziola per quello che ero distratta. Ecco perché. Una notiziola perché sai che Willy in questi giorni si sprecano le voci di aggiunte di nuovi pulsanti alla pagina Facebook, quello per dire sono libero quindi sono disponibile a essere rimorchiato o rimorchiata, insomma cose di questo tipo. Bene, oggi ci arriva la notizia che in occasione delle elezioni europee Facebook aggiunge il tasto I am voter, cioè sono un elettore, voglio farlo sapere anche agli amici di Facebook. E siccome noi qui parliamo di stati di crisi e di vedere come superarli, vorrei partire proprio... Io e te, Francesca, che siamo due frequentatori del social, lo metteremo. Io seguo te, dobbiamo mettere che siamo... Ma non del... ci penso no. Ah, ok, così so cosa fare. Benissimo. Te lo dico alla fine di questa puntata. Ah, ecco, va cosa bene. Facciamo. Ok, ce lo diranno. Perché allora. Io avrei intenzione di assolutamente... Va bene, non aderire allora, adesso... a queste cose perché penso che non abbiano nessun senso sociale e collettivo. Mi allineo a te. Però voglio cominciare proprio da qui, caro Francesco. Abbiamo bisogno del tasto I am a voter? Bah, io pensando ad alta voce penserei che l'associazione che mi viene in mente è che significa io sono vivo. Quindi forse per certuni potrebbe andare anche bene. Io sono vivo. Cos'hai fatto al dito, Francesca? Oddio, di... è anche un po'. È il dito di Cattelan. No, girati da un'altra parte. È il dito parte, di okay. Cattelan e ho cercato di farmelo a fette ieri. Ok, va bene. Scusate, che ti ho visto ferita, allora. Scusi professore, vada pure avanti. No, nessun problema, nessun problema. Prima le ferite. Gli stati di crisi anche. Prima le ferite, le ferite vengono prima. No, dicevo, mi viene in mente, l'altro giorno i miei studenti all'università hanno organizzato un dibattito, no? Sullo stato della formazione, su come stanno le cose, sul fatto che ovviamente non si trova lavoro, che uno fa l'università ma non sa che a cosa servirà, eccetera eccetera, cioè sulla crisi poi in definitiva del mondo giovanile, no? E quando mi hanno dato la parola io, come dire, in forza imbarazzo, ho detto: scusate, ma voi in tutti questi anni dove siete stati? Cosa avete fatto? Perché non vi siete ribellati? Perché non avete partecipato? Perché vi lamentate soltanto delle conseguenze di quello che accade? Allora, come dire, se uno dice andrò... Vorrei chiedere qualche risposta dopo, se vuoi, così, perché sono curiosa. Delle risposte? Che ti hanno dato, quando tu gli hai chiesto dove eravate, cosa state facendo perché non avete partecipato. Sì. Comunque, finisci pure, scusami. Sì. Mi sembra quindi che, come dire, una... Io ci vedo anche una sfumatura positiva in questo, in questa dichiarazione, sono uno che va a votare. Guardate che vado a votare, perché la tentazione massima è di non andare a votare. Tant'è vero che io credo, tutti dicono vincerò io, vinco io, Renzi vincerà, Grillo vincerà, Berlusconi non vince più, non lo dice più. Ad ogni modo, tutti dicono che vinceranno, ma in realtà il partito che ha vinto è il partito, ha già vinto, il partito di quelli che non andranno a votare. E poi vinto che... Cioè, no, perché mi rendo conto, abbiamo parlato nelle... Ma l'importante è partecipare. Di calcio, no? Parlavamo di manifestazioni sportive. Diventa sempre più una tifoseria e lasciando appunto ha vinto il mio candidato, ha vinto il tuo candidato, eccetera, eccetera, però poi si lasciano per strada i contenuti. Bravissima. Perché di tutto si sta parlando tranne che dei contenuti. È proprio questa la vera tragedia. La vera tragedia è che della partecipazione popolare alle scelte collettive è rimasto solo il voto, ma si è svuotato completamente di qualunque significato, perché si va a votare per ragioni, starei per dire, viscerali. Si va a votare e il conflitto è tra la rabbia di Grillo e la speranza di Renzi, oppure tra la paura di quelli a cui Grillo potrebbe fare il processo se vince lui e la paura di quelli a cui potrebbe fare qualcosa Berlusconi se vince lui, o di quelli a cui potrebbe fare qualcosa se vince Renzi. In definitiva, il problema è ormai votare è una espressione emozionale, non è un'espressione politica. Come quando vince la tua squadra. Preciso. Sei lì che rinforzi il tifo per... Preciso, ma completamente, ma tende ad essere completamente vuota di contenuti. Infatti, se c'è qualcuno che, come nelle ultime due settimane, a un certo punto hanno cominciato finalmente a fare qualche dichiarazione in cui devono dire grosso modo che cosa vogliono fare, tutti cambiano canale, nessuno ascolta. Non c'è, non hanno nessuna audience. I contenuti non hanno più audience. Beh, diciamo che anche in televisione sono spariti un po' i contenuti, nel senso che anche quando ci sono questi momenti di dibattito, poi non si dibatte sui contenuti, ma voi avete fatto, noi abbiamo detto, però poi il contenuto si perde. Certamente, ma almeno lì qualcosa passa. Ma nel momento in cui bisogna tralasciare la guerra tra galli o la drammatizzazione del confronto tra personaggi, tra etichette, tra sentimenti ed emozioni, e bisogna parlare di cose concrete, quella dimensione non ha più audience. Devo dire che è noiosissima da un certo punto di vista, cioè, come dire, ci hanno ucciso. Poi c'è l'altro problema, grosso problema, che nel momento in cui tu parli di contenuti, no, nessuno si fida di te, perché tu sul piano dei contenuti ormai hanno perso talmente la faccia che possono dire quello che vogliono e dicono tutto il contrario di tutto e nessuno ci crede più, mentre invece il non verbale, l'emozionale, quello colpisce. Colpisce quello che provoca emozioni, perché le emozioni vengono giudicate in qualche modo più attendibili. Cioè, se quello mi fa sperare, se quello mi rassicura, se quello mi dice che poi la mia rabbia si esprimerà, io seguo quello, perché quella è una cosa che assolutamente non implica ragionamenti, non implica progetti, non implica sforzo, ma implica semplicemente la sensazione emotiva che ti dà quella comunicazione. Però posso dire una cosa, siccome è già un po' di tornate elettorali che c'è questo sentimento, non è una cosa nuova di adesso, insomma, se vuoi è cresciuta, ma comunque è un sentimento che c'è già da anni e da varie tornate elettorali, e potremmo già cominciare a fare ognuno di noi un bilancio di come sono andate le cose, nel senso, tu dici voto la persona che mi rassicura, che mi fa pensare che la mia rabbia in qualche modo si cheti, possa esprimere o si possa esprimere. Dopodiché mi verrebbe da chiedere a tutte queste persone, tra una tornata elettorale e l'altra è successo questo? Cioè, si è calmata davvero? Si è espressa davvero la tua rabbia? Ti sei sentito più tranquillo? Sei stato meglio? La tua vita è migliorata? Cioè, no? La tua e quella anche di chi ti sta intorno. Facendo non importa. Un tipo di bilancio così, forse pian pianino si potrebbe anche cambiare. Sì, ma questo non importa. Ecco. Non importa, perché sul piano razionale le persone tutte sono convinte che non c'è niente da fare, cioè che il mondo non cambia, che le cose non cambiano. In questo tutti gli elettorati, in questo pessimismo, tutti gli elettorati si equivalgono. Allora, la ragione, secondo me, profonda per cui i contenuti non hanno audience, i progetti sono patetici, è che tutti sono convinti che tanto non cambia niente e che le uniche cose che possono cambiare sono a livello individuale, e quindi l'unica speranza che c'è è che le emozioni che mi dominano e che non posso esprimere, c'è qualcuno che mi darà la possibilità di esprimerle. Quindi è un piano totalmente individuale, ovviamente, ed è un piano totalmente emotivo, ma sul piano razionale il pessimismo è totale, imperante. Nessuno, persino i giovani, ne abbiamo già parlato altre volte anche in questa trasmissione, persino i giovani, quelli che sono più idealisti, più utopisti da sempre, dovrebbero, persino i giovani sono convinti che niente cambi. Però quindi, poi ci torniamo ai giovani, perché poi mi interessano le risposte che ti sono arrivate, non mi dimentico questa domanda. Intanto io darei un po' di sollecitazioni ai nostri ascoltatori e alle nostre ascoltatrici. Innanzitutto, siete dei voter, cioè degli elettori, o non siete degli elettori? Io sono un voter. A parte Willy, che appunto, in che senso, come, siete dei tifosi, non siete dei tifosi, metto questa parola tra virgolette, oppure non vogliamo sapere per chi votate? No, assolutamente no, è l'atteggiamento al voto che ci interessa, e anche l'atteggiamento nei confronti dei contenuti. Se andate a votare, per quali contenuti vorreste che venissero portati in Europa? E direi che possiamo fare il primo stacco musicale, Willy? Diamo prima i nostri riferimenti, per mettersi in contatto con Oltre la Crisi, al fisso al 051 346458 o al mobile, Francesca? 333 180 94 94. Devo dire che Plus sta perdendo qualche colpicino. No, Plus sempre numero uno. Io invece volevo dire che sono particolarmente felice perché siamo solo a un mese dalla mia stagione preferita, la torrida estate, stiamo conducendo in Bermuda, c'è un sole stupendo, un cielo azzurro, una musica bellissima. Io non sono in Bermuda, neanche Francesco. Ma sei dai, tu in dai, Bermuda. Non si vede in radio, su, tenetemi la parte. E quindi se anche non si va a votare è lo stesso. E quindi anche se non si va a votare è lo stesso. Always be this way, your heart. Dimenticavo di presentare anche Anita Becker con Sweet Love alle 13:21. Accompagna questo rientro in diretta con Francesca Clementoni e Francesco Campione. Siamo ad oltre la crisi qua a Radio Città Fujiko. Vai Francesca! Non va più la rotella del mouse, non riesco a andare. Io ho fatto in una giù. Presentazione tutta professionale, tu mi parli di rotelle. Io abbasso la, ma come dire, lo standard. Andrea, ma dov'è tutto Andrea? Dipende dalle rotelle. Andrea ci ha abbandonato, non ci vuol più bene. Boh. Io mamma so. Mia, sono un po' così. Cioè, anch'io, prese che è disperato da quando non ha più la comunista che perde dei no, io non sono disperato. Secondo me è stato il calcio che l'ha ucciso. No, perché dai, sul poverino. Calcio, perché sul calcio certe speculazioni sono impossibili. È dal calcio che non c'è. Secondo più. Me è dal calcio che. Però oggi è argomento suo, quindi dai, dovrebbe. Ma se si è ritirato. Speriamo di no. Se è in ritiro. Salutiamo Andrea intanto. Plus il prete saluta Andrea anche il magico Willy. Tutti li salutiamo. E, andiamo avanti. Prima tu mi hai detto che in occasione di un tuo intervento hai sollecitato la platea. Alquanto giovanile, sul dove siete stati, cosa avete fatto, che fine ha fatto la vostra partecipazione, eccetera, eccetera. Io ti ho chiesto, ma le risposte ti sono arrivate? Sì, qualche risposta è arrivata. E vogliamo sapere anche quali, ovviamente. La risposta più assordante è stato il silenzio, non hanno risposto. Poi invece due o tre risposte qua e là indicavano, in definitiva, erano come se volesse dire: ma noi da soli non ce la possiamo fare, dovevate stimolarci voi professori. Però, aggiunto uno, quando lei ci ha stimolato e ci ha fatto delle domande, dice: noi ci siamo arrabbiati perché ci sembrava una perdita di tempo, perché volevamo la lezione classica, no? Mm-hmm. Secondo me era detto in versione autocritica? Sì, in versione autocritica. Secondo me il senso, a parte che quel gruppo di studenti a cui mi riferisco è un gruppo di studenti, come dire, gli unici che partecipano e quindi non rappresentativo, probabilmente non doveva essere rivolto a loro quel rimprovero, ma io l'ho fatto per provocarli, ovviamente, no? Ecco, però è significativo questo. Partecipano, certo. In pochissimi, quei pochissimi che partecipano si beccano anche ma in definitiva un po' di responsabilità ce l'hanno, perché sono sempre i soliti quattro che non riescono mai a diventare cinque. Sì, è vero, quindi vuol dire che anche il modo di porsi manca un soldo per far la lira. Manca un soldo per fare la lira, esatto. Siete tornati alla lira, oh ragazzi, no, vi prego. Non è argomento da settimana elettorale questo. È un messaggio subliminale. Vi prego. È un messaggio subliminale. E allora, io però vorrei andare subito rispetto alle altre volte. A come andare oltre. Dicevamo che in queste ultime settimane, insomma in questi ultimi giorni, spariscono ulteriormente i contenuti, cioè nel senso si guarda se quello è più avanti, se quell'altro è più indietro, se a livello di percentuali o di sensazione, ma i contenuti, cioè il motivo per cui chiunque stiamo eleggendo qualcuno da mandare in Europa, perché ce li mandiamo? Che cosa devono andare a dire per noi in Europa queste persone? E questo mi sembra molto annientato dalla parte, diciamo, informativa, ma anche vedo nei dibattiti, non è solo colpa della stampa o dei giornalisti, come direbbe qualcuno, che avrà le sue colpe sicuramente, ma io vedo che anche in strumenti più paritari, dove le persone si parlano più direttamente, insomma non c'è la mediazione della scrittura o del servizio giornalistico, tutti questi contenuti non emergono. Cioè non c'è confronto, faccio per dire Facebook, a parte dire quello ha fatto quella porcata, quell'altro ha fatto quella porcata, però non vedo dibattiti tra amici di Facebook, per esempio, su contenuti o cose di questo tipo. Sì, perché c'è un altro grosso problema. Ci sarebbe, prima di riuscire a ripassare un po' i contenuti, ci sarebbe un altro grosso problema prima. E cioè si sarebbe da uscire, perché torniamo al nostro punto di prima, se si è convinti che non si può fare niente, è stupido stare a rompersi le palle coi contenuti. Tanto non si può fare niente. No, l'unica cosa che si può fare è distrarsi, sfogarsi, divertirsi, mandarla in vacca, mandarla in vacca, brontolare, certo, cioè tutte quelle cose che in qualche modo sono sedative, che in qualche modo sono come dire, terapeutiche in senso nobile, no? Cioè non poter cambiare le cose vuol dire essere impotenti. L'impotenza, se bisogna conviverci, ti devi prendere qualcosa, altrimenti non ci puoi convivere, altrimenti ti fa stare troppo male. Allora, il meccanismo è quello: ti prendi qualcosa, vai a sentire un comizio di Grillo e ti prendi qualcosa, perché il comizio di Grillo ha quella funzione. Quando era vaffa aveva la funzione del moltiplicarsi del vaffanculo che tu volevi mandare a tutti. Adesso che è li mandiamo tutti, li processiamo tutti, le purifichiamo il mondo, eccetera, eccetera, in fondo tu vai a sentire e ti sfoghi, no? Cioè, in definitiva, ha una funzione. Come? Ti sfoghi o ti deresponsabilizzi? Ma perché se il cattivo è l'altro, senti, tu ma, sai, senti, ma se sei responsabile non ti puoi sfogare. Deresponsabilizzazione e sfogo vanno a braccetto sempre. Scusa. Non è che tu, se sei responsabile, come fai a sfogarti? Sei responsabile non ti puoi sfogare. Allora il problema è come si procede da lì, cioè che cos'è che può far cambiare idea sul fatto che in definitiva qualcosa si può fare per cambiare il mondo in meglio, no? Il fatto che si esca dall'individualismo, perché è vero, se ognuno di noi resta solo e sta nella sua miserabile vita, è vero che il mondo non cambia, è verissimo, perché da solo ognuno di noi non può fare un cavolo, è totalmente impotente. Ma se si mettono in 50.000 e spingono una macchina, la macchina diventa un fuscello, eh? un fuscello. Ti è venuta fuori sicula. Mi è venuta fuori sicula, diventa un fuscello. È chiaro? Allora il problema è, il punto è, si supera con la sconfitta dell'individualismo. Si supera tornando a far sì, nell'unico modo possibile, cioè collaborando tra le persone, uscendo dall'individualismo, nell'unico modo possibile per concepire un cambiamento possibile nel futuro. Perché il cambiamento possibile nel futuro è concepibile soltanto se si esce dalla ristretta prospettiva individuale. Andiamo in publi? Sì. Dai, sì. Facciamo così. Poi allora torniamo, che questa cosa qui te la voglio un po'. Andiamo in publi, poi torniamo. Ricordiamo 333-180-9494. A più tardi, buon ascolto, Billa Bounty. Much better. I hardly ever cry the way I did before. I've been living it up, having myself a time, living it up, right from the women to the wild. I'm living out all those fantasies I never did get to. Those crazy things I never got to do. Kiss will be 13:39 minuti, oltre la crisi, insieme a Donald Byrd in questo caso, e anche le coriste di Isaac Hayes, per dare un tono profondo a questo soul bellissimo, che non è il soul che è in cielo, ma il soul musicale. Black music. Allora, io a per voi. Colpa della pubblicità ho perso il filo. Oh. Ah, sicuramente è colpa della pubblicità. Ma no, la pubblicità fa perdere il filo, sì. Eh sì, no, è che ci siamo messi anche a parlare d'altro, ma sempre beh, di superamento di stati di crisi, ma che non c'entrano niente con l'eleggere o il votare. E dicevamo, si perdono per strada i contenuti. E, sì, appunto, e io ti dicevo che appunto bisognerebbe uscire dall'individualismo. Esattamente, esattamente, però... Belle parole, potrebbe dire l'Andrea di turno. Come belle parole. Passami il termine. No, beh, il concetto è bello, mi piace. Adesso ma ci autoinviamo i messaggi. Che come si fa? Sono sempre molto concreta, perché ti spiego. Io vengo da situazioni di movimento, io personalmente per esempio, e conosco persone che hanno abbracciato per un certo periodo il percorso dei movimenti, del collettivo, del fare le richieste insieme, le manifestazioni. Ti ricordi le manifestazioni del 99% della popolazione mondiale che chiedeva lo stop alla guerra contro l'1% dei gerarchi mondiali che invece volevano la guerra, o comunque cioè l'esercito della pace. Esatto. Un movimento più collettivo, non mi puoi dire che quelli erano individuali, quel gruppo di persone, quel 99% che scese in piazza in tutto il mondo, era individualista, certo, ma che è successo dopo? O troppo arricciato sul proprio ombelico, diciamo. Certo, ma che è successo dopo? Che è successo dopo? Che non è successo niente, e quindi uno poi si scoraggia e dice vabbè, allora, e va in quello stato d'animo che dicevi prima tu, allora non c'è nulla da fare. Appunto, quindi allora psicologicamente significa che anche se un movimento è un movimento, come dire, con un obiettivo giusto, la pace per esempio, se condivide l'ideologia efficientistica del mondo in cui noi viviamo, per cui la pace, che sono secoli che non c'è, la vogliamo ottenere con due manifestazioni, ci scoraggiamo subito. Questo è il punto psicologico, cioè il problema del fare le cose senza badare ai risultati, il problema del farle disinteressatamente. Le manifestazioni per la pace, l'esercito della pace, che è il 99% delle persone che in effetti vogliono la pace in tutto il mondo, sono, è l'1% che vuole la guerra, quelli che hanno interessi, come dice il Papa, quelli che devono vendere le armi, tanto per citare il Papa. D'accordo? Beh, da prete direi che sei coerente. Beh, oggi c'era una bellissima dichiarazione del Papa, tra l'altro, che la vedevamo prima, adesso quando la ritrovo te la dico. Certo, però che va in questa direzione. Certo, allora tornando a noi, il problema è che le manifestazioni della collettività, del mettersi insieme per ottenere un obiettivo positivo, tipo la pace, sono effimere, sono manifestazioni effimere, non durano niente, no? Ora, da questo... A proposito del Papa, ne ho trovato una, non ho trovato quella di prima, ma ne ho trovato un'altra che va nella direzione: non cediamo al catastrofismo e alla rassegnazione. Oh, benissimo, l'ha detta ieri, bellissima. Francesco, non ci viene in aiuto, non, Francesco. Non cadiamo nel catastrofismo e nella rassegnazione. Tra un po' telefona, è stato... Allora, sì, beh, ormai ha preso la tessera. Che cosa vuol dire? Che cosa vuol dire? Vuol dire che dobbiamo durarla. Vuol dire che se anche due manifestazioni non riescono, bisogna farne una terza. Sì, se bravo. Tre non riescono, bisogna fare una quarta. Se quattro non riescono, bisogna fare una quinta. Bravo, se cinque non riescono, bisogna farne una sesta. Se sei non riescono, bisogna farne una settima. Io se sette non riescono, bisogna farne un'ottava. Okay, se otto non riescono, bisogna farne una nona. Se il nove non riescono, bisogna farne una decima. Se dieci non riescono, bisogna farne un'undicesima. fino alla pazienza più totale. Senza la pazienza il mondo non cambia. È arrivato Andrea. Viva Dio, chiamato, tanto per rimanere in tema di sacralità. Diciamo sì, che l'abbiamo fatto. Provocato. Ma io, guarda, sono andata con te proprio in quella direzione e ce l'ho. Scusa Andrea, ma ce l'abbiamo fatta. Buongiorno, un saluto alla Splendida Plus dallo stile no logo, ovviamente. Stile no logo, stile no logo, vero? E dal fascino intellettuale innegabile, vai, con questa comincia a svolazzare per lo studio. Un saluto all'immenso Willy, sempre immerso nel sound migliore, e il prete, non so che dire. No. Lui sarebbe uno di quelli che i dolcificanti li metterebbe a rogo. Metteresti a rogo i dolcificanti? Assolutamente no, io sono per un mondo dolcissimo, purché però chi si prende i dolcificanti si prenda anche il caffè, purché cioè sia lo zucchero nel caffè e non il caffè tutto zucchero, che ci sia anche il caffè. Ecco, che io ho sempre detto amare le donne e dolci i caffè. Chissà cosa c'entra. No, lo dico spesso. Ma perché l'ha sempre detto e quindi lo ridici. Scusa, è interessante. E poi in questo simposio non io sono quello meno preparato. Hai capito? Allora ogni tanto la butto lì. Abbiamo bisogno di note spaesanti che sdrammatizzino. Infatti, mi sembra. Grazie. Dire che nostra trasmissione sullo spaesare è fantastica. Riusciamo. In cose che voi va uomini... bene, ma voleva dire qualcos'altro oltre al fatto che adesso teniamo fiduciosi, che suppone che io sia un repressore dei costumi, moralista. Sei moralista, no. Purtroppo ti conosce poco, ma ormai ti sei acquisito quel personaggio. Vabbè. Dai, bello giocare così. Ma il rogo lo userebbe anche per frate Dolcino. Frate Dolcino, no, lasciamelo, dai, ti prego. E quindi, dicevamo, torniamo alle cose serie. Alla nostra Europa. Nostra, insomma, vabbè. A quello che vorremmo andare a dire in Europa. Non, devo dire che i nostri ascoltatori, a parte Andrea che è sempre molto fedele, non sono stati sollecitati dal nostro argomento. E secondo me c'è un motivo. Ma io, per dimostrare che non sono come dice Andrea, ti dirò qual è la mia ipotesi sul fatto che gli ascoltatori non beccano. Certo. È che stanno mangiando e si fanno i cazzi loro. Anche questo direi che è un hai po'. Capito come. Allora, il problema, secondo me, è che tu li interroghi in un momento inopportuno. Tra le due. Tra le 13 e le 14. Non è così facile. Cioè, tu li interroghi tra le 13 e le 14. È un po' difficile. Scusa, solo le anoressiche, gli sfigati, quelli che non lavorano, quelli che sono magari sono in macchina nel transito. Pieno... Con tutto il rispetto per le anoressiche e gli sfigati, ma è pieno di gente che c'è la crisi, che è inoccupato o è in transito di occupazione. Ma l'unica soddisfazione degli italiani è mangiare tra l'una e le due. E guarda che è l'unica soddisfazione che è rimasta agli italiani. Allora, e poi ti dico, finché dura. Finché dura, certo. Finché dura. Ma finché tu dura. Mi arrivi alle 13:47 del giorno 21 maggio, è oggi? Sì? A dirmi che abbiamo sbagliato l'orario della trasmissione. No, non dico che abbiamo sbagliato l'orario della trasmissione. Dico che la mia ipotesi è che molti ci ascoltino, ma ci ascoltano non riuscendo a rispondere perché sono impegnati nella masticazione. Allora, Andrea specifica perché useresti il rogo anche per frate Dolcino, dicendo: dato che la sua etica pauperista collidea con la sua voglia di positivismo ideologico. Collide. Sì, ho sbagliato a leggere io. Intanto la mia etica non è pauperista, io sono per il lusso più sfrenato per tutti. Per tutti, però. Per tutti. Io sono per il lusso più sfrenato per tutti. Un bel lusso democratico. Perché l'uguaglianza nella povertà mi fa schifo. Ecco. Lo dico subito. Se per essere tutti uguali dobbiamo diventare tutti poveri, no, non mi piace. Qui però dopo si apre tutto un discorso su che cos'è lusso. Hai citato Marx. Hai citato Marx. Bravo, l'uomo è ricco quando è ricco di bisogni. Ecco appunto. E dicevamo, abbiamo fatto tutte quelle manifestazioni che prima citavi, perché io vorrei ritornare sul poche punto. Ne avete fatte poche, ne abbiamo fatte poche, troppo poche, questo è il problema. Ne avete fatto, vi siete stancati presto, volevate dei risultati. I risultati, in un mondo dominato dalla guerra da secoli, se la gente finalmente prende atto del fatto che la maggioranza non vuole la guerra, deve mettersi seduta e impedire tutto ciò che va nella direzione della guerra e non alzarsi più finché non lo impedisce. Non stancarsi alla prima manifestazione che non ottiene effetti. Però poi capisci, c'è da andare a lavorare, c'è da portare i figli a scuola, c'è da seguire gli amici, certo, andare a cinema. Come ci si fa a sedere? Ma basterebbe manifestare tutte le sere, invece di mettersi 4 ore e mezza davanti alla televisione, tutte le sere si manifesta, per la pace. È la mia serie TV preferita, poi? È la tua serie TV preferita, allora ti becchi la guerra. Cosa vuoi da me? Passivamente a sedere con una birra in mano senza neanche parlare con chi hai vicino, ma stare allo smartphone. Appunto. Allora, il problema è, non è vero, noi in definitiva condividiamo due cose fondamentali del mondo in cui viviamo, ed è per questo che non riusciamo a cambiarlo, nonostante le buone idee, perché l'idea della pace è una idea buona, è giusta, no? No, condividiamo due cose, l'efficientismo e la voglia di distrarci. Non siamo seri. Se vogliamo cambiare le cose, non dobbiamo distrarci. Quando vuoi cambiare una cosa, ti metti lì, Delenda Cartago, e la cambi. Delenda Cartago. Delenda Cartago. Grazie. E la cambi. È la citazione perfetta. Io esco da qui che sono alto 2,20 metri di cultura. Oddio, no, ancora di più. Attento la testa. E invece noi condividiamo il modo che questo mondo ha di far sì che noi non partecipiamo, cioè ecco, per esempio questa domenica qui, se che sarà bello, no, noi invece di votare andremo al mare, lo preferiremo, ci distrarremo, e questo è precisamente una delle ragioni profonde per cui questo mondo non cambia, perché questo mondo ha come faro educativo distrarsi, non pensarci alle sfighe, perché se non ci pensi scompaiono. Questo è il punto. L'altra cosa è l'efficientismo. Dobbiamo ottenere i risultati in poco tempo, quasi magicamente, con le tecniche. I risultati umani sono frutto di una costruzione lenta e faticosa di secoli. Per avere la pace, i popoli che la vogliono si dovranno impegnare per qualche secolo, sempre meno che i secoli della guerra che ci precedono, però si dovranno impegnare per qualche secolo. Se non hanno il fiato per qualche secolo, riavranno la guerra. L'Europa, per esempio, da questo punto di vista, facciamo un esempio per l'Europa. Sono quasi 100 anni, era da secoli che non c'era un periodo senza guerra in una parte del mondo di quasi 100 anni come c'è oggi in Europa. Se non la duriamo, che ci stanchiamo, ci stiamo stancando, fuori dall'euro, basta, ognuno per sé, pensiamo all'Italia, pensiamo alla Francia, pensiamo alla Germania. Se non la duriamo, la guerra tornerà in Europa, ridiventiamo nemici. Non c'è dubbio, la dobbiamo durare. Non bastano 70 anni, 100 anni, ce ne vogliono 300, 400, 500, quelli che ci vogliono, dobbiamo avere la pazienza. Allora, io ho un po' di sollecitazioni da Andrea, che commenta in diretta, mentre tu parli lui conversa in diretta. E allora, lo possiamo invitare una volta, sì, come infatti, ospite in studio? Sì, perché no? Sì, assolutamente. Ti invito io, nonostante le occhiatacce, va bene? Mi prendo io la responsabilità. Non so come gestirli. No, ma vieni di qua con me. No, ma secondo me Andrea non viene. Dai. Non viene, perché secondo me io sarò prete, ma lui non ci mette la faccia. Oppala, parole ve lo dico subito, io sarò questa anche prete, ma lui non ci mette la faccia. Allora, parole pesanti. Vado avanti, no, questa scusa, è una provocazione bella e buona, scusa. Io non sottoscrivo. Andiamo avanti e leggiamo. Allora, è questo che volevo sentirti dire, la tua idea di impronta ecologica è tragica, prete, ma è la tua ideologia che impedisce di esprimere la volontà di riequilibrio sociale. Questo mi sembra era riferito a quando hai detto, hai ricitato Marx in chiave campioniana, diciamo, del discorso lusso per tutti, insomma. Lusso per tutti, sì. Poi, prete, ma citi il partito Pane e F, con tre cancelletti che seguono. Pane e figa, è vero che non ce la mette la faccia, ma di figa, no? Ma di figa, questo no. È di figa. Scusa. È di figa, sì, può dire figa. Buona, gli tolgo il microfono. Scusa. Va bene, basta, vado avanti. Di figa. Se Philip Dick ti sentisse altro che distopia, sei come il cardinal Bertone, antico, suppongo, c'è scritto attico, ma suppongo antico, che sia antico. Beh, il cardinal Bertone ha un attico. No. Sì, no, ma non credo si riferisse alla casa di Bertone. Vabbè. No, ma però se si smettesse di dire cazzate sarebbe meglio. Perché il problema è che bisogna. Io interloquisco con tutti, sì. Ma se uno mi paragona al cardinale Bertone, no. Dico che è un cazzone. Punto. È chiaro che fa anche rima. Fa anche rima. Scusa, no, non è possibile. No, abbassiamo tutti i toni. No, abbassiamo i toni. No, tutti. Prima però, se siamo seri, siamo seri. Se no, no. Scusa, la serietà, capisco, io va benissimo, accetto tutto, così, eccetera. Ma no, ma cazzate no. Esatto, e quindi insomma riconduciamo la nostra conversazione amabile tra casa e chiesa. Anche perché abbiamo 5 minuti. Esatto, finiti consigli, scarsi. Anche perché ci piace di più, perché se si va sulla provocazione è bello, ma quando diventa pesante e non reale dopo. No, ma però adesso non fare tu la suora, però adesso. No, io... Perché adesso sei diventata suora tu? No, perché non mi piace. Non ti piace, ma quando ci vuole, però ci vuole. Non è che certi limiti bisogna non passarli. Appunto. Non è che uno si può permettere a me di dire che sono come il cardinal Bertone. Non se lo può permettere, hai capito? No, ma io lo meno quello che lo dice. No, no, non dico soltanto, ma lo meno anche. Hai capito? L'appello era rivolto a entrambi. No, l'appello. Era una merda, è stata pestata una merda. E va bene. E bisogna dirlo. Certo, assolutamente. Dopodiché evitiamo di pestarle, questo voglio dire, non mi sembra che sia molto suoresco quello che ho detto. Va bene, ma prima però bisogna dire che, no, che è una merda, prima di... Certo. Quindi no, non fare pompiere. No, troppo. Non faccio il pompiere. Io voglio trovare la soluzione per l'Europa. Sì, no, sono esagerato. No, voglio chiudere questa trasmissione con un messaggio di superamento, come facciamo sempre. E comunque spesso quando ci troviamo a parlare di espressione del voto, di scelte politiche e sociali, così vediamo magari tutta la parte critica, tutto ciò che non funziona, tutto ciò, anche da parte nostra, quello che dicevamo anche poco fa. Però poi io concretamente cosa si comincia a fare tra un minuto appena finita la trasmissione? Sì, ma tu quando fai questa domanda però... Dai il segno chiaro che non hai capito cosa ho detto prima. Infatti, se io ho detto che ci vogliono secoli, tu mi dici che facciamo fra un minuto? No, ma per iniziare i secoli bisognerà cominciare dal primo minuto. Cioè continuiamo a fare le manifestazioni per la pace. Fra un minuto ne facciamo un'altra. Non è che... Senza aspettarci però che di avere il risultato della pace subito. Perché le ragioni per cui scoppia la pace... sono ragioni particolari, cioè gli uomini si devono amare perché scoppi la pace, non si devono odiare. Finché gli uomini si odiano, gli uomini faranno la guerra. Gli uomini smetteranno di fare la guerra quando un uomo di Bologna sarà in grado di amare uno di Shanghai anche se non lo conosce. Cioè quando l'umanità quando tutti si sentiranno parte di una comune umanità. altrimenti la pace non scoppia. Cioè non è che la pace è il risultato di solo posso della... Posso fare un commento che mi viene... Poi dobbiamo chiudere. Sì, poi chiudo. Una riflessione che mi è venuta in mente adesso mentre parlavi. Non siamo riusciti a passare dal concetto di collettivo da cui proveniamo, quello del collettivo, insomma, intorno a noi, non siamo riusciti a farlo evolvere a collettivo globale? Potrebbe essere un'idea. Io dico che tutte le volte che un collettivo si costituisce, tutte le volte che si incontrano più di due persone, tutte le volte che si incontrano tre persone c'è un collettivo. Due no, non è un collettivo, perché possono fare un egoismo a due, ma tre, tutte le volte che si incontrano tre, c'è un collettivo. Allora il problema è come far sì che quel collettivo non si sciolga al primo insuccesso. E anche come far sì, a riconoscersi con un collettivo di Shanghai che ha esigenze, esperienze, esatto, culture diverse. Esatto, ma se al primo tentativo che quei tre fanno di fronte a altri tre di Shanghai non ce la fanno e si scoraggiano e non insistono, non succede niente. Certo. Ma allora, torno a dire, ci sono due aspetti fondamentali del funzionamento di questo mondo, che sono l'efficientismo e l'uso della distrazione di fronte all'insuccesso, di fronte a tutto ciò che è negativo. La nostra cultura usa la distrazione, non usa l'impegno, la perseveranza, la tenacia, la pazienza, usa la distrazione, per cui è un mondo totalmente inconcludente. Si comincia una cosa e siccome non si ottiene tutto in una settimana, la settimana dopo se ne comincia un'altra. Bene, io vorrei chiudere con, visto che abbiamo chiesto per tutta la puntata contenuti, vorrei chiudere con un contenuto e ce lo offre proprio Andrea, che dice: stiamo sul pezzo, la crisi europea non la si risolve senza abbandonare la NATO, e quindi lui porta un suo contenuto e poi scrive: NATO uguale occupazione USA, la UE potrebbe andare meglio se fosse autodeterminazione. Questo è un... Benissimo, possiamo essere d'accordo, ma in quanto tempo possiamo ottenere questo risultato? Non basta dirlo, certo, ci vuole il tempo, l'impegno, la perseveranza e la pazienza, i secoli per ottenerlo. E per noi si ritorna mercoledì prossimo, non bisogna aspettare. Non tra un secolo. No, non bisogna aspettare così tanto tempo. Siamo molto più riduttivi. Mercoledì prossimo ci saremo ovviamente con Oltre la crisi. Un buon pomeriggio per chi deve ancora mangiare. Buon appetito. Ciao ragazzi. E voi non salutate. Ciao. Ciao. Ciao. Aspettavamo che finisse. Oltre la crisi. Parliamone. In studio il professor Francesco Campione.